Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Arriva il via libera da parte della Corte Costituzionale tedesca al meccanismo europeo di stabilità ESM, con il commento positivo del premier italiano Mario Monti. Il presidente José Manuel Barroso, durante il discorso sullo Stato dell'Unione, sottolinea come il futuro dell'Europa sia nell'unione politica. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Im Namen des Volkes, die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Mercoledì 12 settembre è arrivato il tanto atteso via libera, anche se condizionato da parte della Corte Costituzionale tedesca, al meccanismo europeo di stabilità ESM. I giudici hanno stabilito che il contributo della Germania al fondo di salvataggio sia limitato a 190 miliardi di euro. Un aumento sarebbe possibile solo con il sì del Parlamento tedesco. Una condizione che non ha creato troppe preoccupazioni, visto che 190 miliardi di euro sono esattamente la cifra corrispondente alla quota di capitale prevista attualmente nel fondo come partecipazione tedesca. La Germania ha dato un segnale forte per l'Europa, ha detto Angela Merkel nel Bundestag, commentando la sentenza della Corte. E un commento positivo è arrivato anche dal premier italiano Mario Monti. Sentiamo. Non penso che questa limitazione segni un freno imprevisto al processo di stabilizzazione dei mercati. Mi pare che la sentenza dica soltanto che per aumentare l'impegno complessivo da parte della Germania occorrerà che intervengano le due Camere tedesche, il Bundesrat e il Bundestag. Questo non mi sembra sorprendente. Il futuro dell'Unione Europea è l'unione politica. Entro dicembre presenteremo il libro blu con i passi da fare per il futuro e con interventi che possono prevedere modifiche dei trattati. Lo ha detto mercoledì 12 settembre il presidente José Manuel Barroso durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Sentiamo. Economic reform coupled with a genuine economic and monetary union. Riforme economiche unite a una vera unione economica e monetaria. Questi sono gli elementi necessari per andare avanti, per progredire. In autunno la Commissione pubblicherà un libro blu per una più profonda unione economica e monetaria. Questo libro blu sarà presentato qui al Parlamento europeo, perché questo tipo di questioni deve essere discusso con e dai rappresentanti del popolo. Il libro blu identificherà gli strumenti e anche i mezzi e le opzioni che li renderanno più efficaci, dall'uso di politiche coordinate alle risposte sui problemi sui conti pubblici. Il libro blu individuerà i passi da fare in futuro e anche interventi che potrebbero prevedere modifiche ai trattati. Questo perché alcune azioni, per essere efficaci, necessitano di cambiamenti nei trattati. Il libro blu conterrà gli obiettivi da raggiungere non solo nelle prossime settimane e mesi, ma anche nei prossimi anni. Not only in the next few weeks and months, but also in next years. Dobbiamo puntare ad una federazione di stati, ha poi aggiunto Barroso, sempre a proposito del futuro dell'Unione. Continuiamo a sentire le sue parole. What we need is a decisive deal to complete the EMU. Ciò di cui abbiamo bisogno è una visione chiara e decisa per completare l'unione economica e monetaria, che si basi sul totale impegno per raggiungere un'unione politica più forte. Per questo dobbiamo fare tutto il necessario per stabilizzare l'euro e per accelerare la crescita nell'intera Unione. La Commissione presenterà diverse proposte. Abbiamo cominciato oggi con la supervisione unica per creare un'unione bancaria in linea con quanto prevedono i trattati. Presenteremo un libro blu per raggiungere una vera unione economica e monetaria. Le proposte saranno tutte in linea con quanto dettano i trattati. Ma quando non sarà possibile fare progressi, presenteremo delle proposte per possibili cambiamenti ai trattati in vista delle elezioni parlamentari nel 2014. Ci saranno anche proposte per rinforzare la democrazia. Questo è il nostro progetto. Andrà avanti passo dopo passo, ma con la grande ambizione di tendere verso una federazione di Stati-nazione come orizzonte per l'Europa. With a federation as the horizon for Europe. Sui tempi e fattibilità di questo rafforzamento dell'Unione Politica Europea, Enrico Pagliarini ha chiesto un commento ad Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea e responsabile per l'industria. Sentiamo. L'integrazione politica dell'Europa avviene se c'è la volontà politica di farlo. Barroso ha dato un messaggio, ha chiamato a raccolta il Parlamento Europeo e gli Stati membri. Questo non significa rinunciare alla propria identità, ma significa lavorare per tutti gli Stati membri per essere più competitivi a livello globale. Una federazione di Stati-Nazione significa che dobbiamo raggiungere nei prossimi anni, certo si tratta di un obiettivo raggiungibile in anni, che ci permette a tutti quanti noi, a 500 milioni di cittadini europei, di poter partecipare alla sfida globale. Altrimenti rischiamo di rimanere indietro e di non essere all'altezza dei tempi. Senta, lei come commenta la decisione della Corte Costituzionale tedesca che ha detto sì, ma comunque con alcune condizioni che non sono sicuramente secondarie? La decisione della Corte Costituzionale significa che il governo tedesco può adesso ratificare il trattato, sia su quello sull'OSM sia il fiscal treaty. Questo significa che questi trattati poi dovranno essere implementati il più rapidamente possibile, ma permetteranno soprattutto di avere una unione monetaria e politica più forte e più sostenibile. Quindi lei non è preoccupato da queste condizioni che sono state poste anche come livello di intervento? No, mi pare che il messaggio sia assolutamente positivo e debba essere valutata molto positivamente la decisione. Senta, le faccio un'ultima domanda su i risparmi attesi che molti governi attendono anche da parte della struttura dell'Unione Europea a partire dalla Commissione. Che tipo di notizie ci può dare da questo punto di vista, visto che si critica spesso il costo della macchina europea? Noi stiamo facendo di tutto per ridurre i costi, già qualche risultato importante è stato ottenuto, a costo anche di provocare qualche reazione all'interno, però mi sembra che tutte le decisioni vadano nella direzione di ridurre i costi, e questo non significa tagliare il bilancio dell'Unione, perché sarebbe semmai un bilancio più europeo, con più forza all'Europa e non con meno forza all'Europa. Sì, oggi tuttavia il Parlamento si è riunito in seduta plenaria a Strasburgo, che è uno dei simboli che molti criticano a proposito di duplicazione. Cioè lei non pensa che ad esempio da questo punto di vista si potrebbe dare un buon esempio chiudendo quella sede? Non è una decisione delle istituzioni europee, questa è una scelta degli stati che hanno, in base al trattato, deciso di avere queste sedi. Sono tre sedi operative a Bruxelles, a Strasburgo e a Lussemburgo. Beh, sicuramente lei un parere. Il trattato da cambiare. Lei un parere ce lo avrà. Tutto quello che si può ridurre. Il Parlamento europeo si è sempre espresso per la riunificazione di una sede, ma il significato della sede a Strasburgo era quella di avvicinare due paesi che hanno stati in guerra, la Francia e la Germania. C'è già la sede del Consiglio d'Europa, quindi che non è un'istituzione comunitaria, ma la sede è sempre stata per tanti anni la sede anche della plenaria del Parlamento Europeo. Certo, avrebbero ridotto i costi, però ripeto, è una scelta che devono fare gli Stati membri, preferendo una riunificazione delle tre sedi rispetto all'attuale situazione. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.